Lucifer is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Theaters on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. My God is gonna own me. There's nothing left to say. Ciao, buonasera, bentornate e bentornati ad una puntata della Mucca Libera. Anche questo lunedì, puntualissimi direi, siamo in onda alle ore 19 precisi e parleremo anche questa settimana di notizie provenienti dal mondo animale e di cultura antispecista con vari approfondimenti. Partiamo, visto che oggi è una giornata referendaria, ricordando un referendum di 30 anni fa, del 1990, che ha segnato un punto di svolta nel nostro paese riguardo la caccia e quindi il movimento animalista. Fu un referendum che vide un successo dal punto di vista numerico dei partecipanti al referendum per l'abolizione della caccia, però il movimento dei cacciatori o tutti i partiti che erano a favore della caccia e quindi contro l'abolizione scelsero di puntare sull'astensionismo, quindi di abbassare la partecipazione, e riuscirono a non far raggiungere il quorum. Il quorum quindi fu mancato, fu fallito, e nonostante il 92% dei partecipanti aveva votato a favore dell'abolizione della caccia, questa legge poi non fu abrogata e quindi la caccia è continuata nel corso degli anni. Sono passati 30 anni, ci sono state diverse modifiche, un cambiamento strutturale nella nostra società, nella società italiana, perché i cacciatori nel corso degli ultimi 30 anni si sono ridotti di due terzi, insomma, siamo passati da 1.400.000 cacciatori nel 1990 agli attuali 500.000 o 450.000, diciamo il numero è abbastanza impreciso, però parliamo comunque di una riduzione molto forte che è dovuta anche al cambiamento di vita nei territori agricoli del nostro paese di residenza, quindi un cambiamento anche culturale che però non ha inciso dal punto di vista di una riduzione di questa pratica orrenda, che comunque è importante contrastare anche oggi, nonostante il nostro paese abbia visto questa sconfitta storica ormai 30 anni fa. I cacciatori erano 1,7 milioni nel 1980, questo trend cominciò a calare, 10 anni dopo erano 1,4 milioni e poi abbiamo visto, abbiamo appena detto, insomma, oggi sono mezzo milione. E bisogna anche contare tutto il fenomeno del bracconaggio, che poi aumenta anche l'uccisione degli animali. Questo era un po' per ricordare questa scadenza che ci riporta nel 1990. Continuiamo a parlare di referendum, però non parleremo dei referendum che ci hanno interessato in questi 2 giorni, ci tenevo a fare questa battuta inutile. Invece parleremo della Svizzera, perché il 27 di settembre, quindi questa domenica che sta per arrivare, in Svizzera ci sarà un referendum che ci interessa molto di più di quello che invece in questi giorni in Italia, che è un referendum riguardante la fauna selvatica. Nell'aprile del 2019 è stata rivista la legge sulla caccia in Svizzera ed è stata rivista secondo delle modalità che sono state molto criticate e da cui sono emersi diversi punti critici. Per questo motivo, grazie alla mobilitazione che c'è stata di associazioni animaliste, attivisti ed attiviste, si è indetto questo referendum che è molto importante affinché questa revisione della legge non passi. Tra i punti critici prioritari, sostanziali, sono il fatto che, soprattutto, che si potrebbe abbattere degli animali appartenenti a delle specie protette, anche senza che questi animali siano in qualche modo pericolosi, che producano danni alle abitazioni, agli esseri umani, agli animali umani. E in qualche modo questa decisione potrebbe portare questa decisione di individuare questi animali protetti come specie da abbattere potrebbe essere presa anche da parte dei cantoni, dei singoli cantoni, quindi senza che ci sia una sorta di supervisione più ampia sulle singole decisioni dei cantoni, che quindi potrebbero procedere anche proprio ad abbattimenti, così come molto problematico anche il fatto che la lista di specie protette che però possono subire degli abbattimenti potrebbe essere allungata, includendo anche altre specie attualmente non presenti. Questi sono appunto tra i punti fondamentali che soprattutto le associazioni animaliste hanno individuato come i punti critici della riforma della legge. Che ricordiamo appunto dell'anno scorso di aprile 2019, questa riforma, e le associazioni animaliste hanno sottolineato che questa riforma è stata portata avanti e vuole da parte di buona parte delle forze politiche, vuole essere portata avanti con forza e con prepotenza, soprattutto per il lupo. Sostanzialmente per riuscire ad avere una gestione dei lupi differente rispetto a quella che c'è attualmente, che sia più facile dal punto di vista delle istituzioni, diciamo, procedere in questo modo semplicemente all'abbattimento di tutti i lupi che verrebbero considerati pericolosi. Il punto fondamentale è che, come un po', diciamo da tempo, anche rispetto alla gestione italiana di quelle che sono orsi, lupi e cinghiali, le soluzioni per una migliore convivenza sono sicuramente possibili, ma sono volutamente ignorate dalla parte politica perché non non sono, è molto più semplice procedere, probabilmente anche economicamente e politicamente porta maggiore pubblicità, insomma, è molto più semplice abbattere piuttosto che procedere a delle soluzioni diverse. Tra l'altro, in Svizzera nessun lupo ha mai aggredito una persona negli ultimi decenni, quindi la paura maggiore e la pressione maggiore che subisce la parte politica non è rispetto alle possibilità di avvicinamento dei lupi agli animali umani o alle abitazioni umane, ma è rispetto agli animali da reddito, che ovviamente chiamiamo così perché purtroppo, anche non volendolo, il loro fattore fondamentale è che appunto producono reddito e quindi in quanto tali vengono difesi e difesi, insomma, dagli attacchi, tra virgolette, dei lupi. Torniamo a parlare di caccia, raccontando un breve episodio che è successo in Arkansas, negli Stati Uniti d'America, che ci riporta il sito con le sue pagine social Resistenza Animale. Ci racconta l'episodio di un cacciatore che appunto in America aveva ucciso un cervo. Parliamo di un cacciatore di 66 anni, piuttosto esperto purtroppo in questa pratica orrenda di cui parlavamo prima. Aveva ferito un cervo sparandogli e si apprestava a completare l'opera, però andando sul posto il cervo in realtà era solamente ferito, anche se gravemente, si è ripreso, si è alzato e lo ha incornato a sua volta, ferendolo in maniera grave, infatti tanto che poi il cacciatore è deceduto durante il percorso in ospedale, quindi una caccia che si è ribaltata a sorpresa come finale. To all my brothers and sisters out there, to you and your culture, be proud of what you are. But most of all, learn to respect others. Un'altra notizia molto interessante e importante ci arriva dalla Polonia, dove è stata appena approvata una legge in Parlamento, nella Camera del Parlamento polacco, una legge che vieta l'allevamento degli animali da pelliccia, in particolare parliamo dei visoni e delle volpi. Questa legge è stata approvata in prima battuta con un grosso numero di voti, con quasi un plebiscito, 365 voti a favore e solo 75 contro, ed è stata sostenuta dal presidente del Consiglio polacco, che è del partito Diritto e Giustizia, che è un partito di destra, ma questo leader, Kapuscinski si chiama, polacco, è anche un animalista, diciamo, zoofilo, molto attento a determinate tematiche, e ha portato avanti questa legge che è stata appunto approvata per la chiusura degli allevamenti degli animali da pelliccia, ma ha provocato una spaccatura all'interno del suo governo, per cui adesso che la legge arriverà in Senato per la sua definitiva approvazione, ci sono state alcune prese di posizione contrarie sempre nel governo da parte del Ministro dell'Agricoltura e del Ministro della Giustizia. Quindi questa legge potrebbe provocare una crisi politica all'interno del governo polacco, con una spaccatura ulteriore in Parlamento, perché in Senato i numeri sono diversi rispetto alla Camera e l'influenza di Kapuscinski è ridotta rispetto appunto alla Camera. Parliamo di un'industria, quella dell'allevamento degli animali da pelliccia, un'industria di morte che è molto forte in Polonia ed è sostenuta da un grosso giro di affari. Parliamo di 500 aziende agricole che addirittura si occupano di questo settore produttivo, con 5,2 milioni di visoni allevati e migliaia di volpi. Sono impiegate 50.000 persone come lavoratori e lavoratrici in questo settore, perché la Polonia è il terzo produttore mondiale dopo Danimarca e Cina. Quindi il progetto di legge ha provocato uno scollamento tra il governo di destra e la sua base, che appunto è fatta di allevatori e imprenditori agricoli. E continuiamo ancora a parlare di allevamenti da pelliccia, e questa volta ci spostiamo in Olanda. Abbiamo già parlato dell'Olanda: in tutto il periodo del Covid gli allevamenti di visone sono stati dei veri e propri focolai, e si è molto discusso riguardo alla possibilità di trasmissione da parte dei visoni del virus. E in quel periodo è stata molto difficile la gestione di quegli allevamenti, tant'è vero che alla fine, essendo colpiti decine e decine di allevamenti in tutta l'Olanda, a luglio fu deciso la chiusura di diversi stabilimenti e l'abbattimento di migliaia e migliaia di capi, come vengono descritti purtroppo i visoni, che sono stati macellati. Infatti a luglio, su questi stessi microfoni, sempre sulla Mucca Libera, ci siamo interrogati rispetto allo strazio, all'ecatombe compiuta macellando questi animali, queste quantità enormi di animali, e purtuttavia ci siamo contemporaneamente chieste se è poi davvero un caso, diciamo così, particolare, in quanto comunque questi animali sarebbero stati destinati non alla macellazione ma alla morte per poterne ottenere la pelliccia. Quindi sostanzialmente il loro destino è cambiato molto di poco a causa del Covid, non perché è sicuramente peggiorato, ma nell'ottica di una visione più ampia di animali che sarebbero stati comunque uccisi per il piacere dell'uomo. E in Olanda, al di là della questione del virus, si era già deciso per entro il 2024 di chiudere gli allevamenti di visoni, grazie anche all'azione che c'è stata nel corso degli anni delle associazioni animaliste. Questa legge, quindi, che prevedeva una chiusura graduale degli allevamenti, ha subito una forte accelerazione a causa del Covid, tant'è vero che per il 21 marzo 2021 è stato deciso in Olanda tutti gli allevamenti di visoni saranno definitivamente chiusi. E adesso ci fermiamo un attimo con le notizie, passiamo ad un po' di musica, un piccolo break. Questa sera ci sentivamo un po' funky, un po' hip hop dannata, e quindi ascoltiamo Cantaloupe, Flip Fantasia. Bye. drop, jazz and hip hop, dripping in your dome, mix your zone and bop. Funk infusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that. The way I keep the rhyme, someone call me a poet. Form steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip trip, lip fantasia. Jam, boogie, woogie, jam, slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Buku ducks, but I still rock Nike. With the razzle-dazzle, a star I might be. Scribble, dribble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip Fantasia. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Give me more of that funky horn. What's that? In onda parlando di un episodio che è successo a Pomigliano in provincia di Napoli, dove è stata chiusa una fattoria abusiva che ospitava oltre 100 animali. Questa fattoria abusiva sorgeva sotto la Circonvesuviana, quindi sotto la tangenziale della zona tra Pomigliano e Marigliano, vicino Napoli. Questa fattoria era praticamente una discarica in cui gli animali versavano in stato di abbandono e di maltrattamento. C'erano poni, dei cani, galline, papere, anatre, tartarughe, oche, piccioni, conigli, insomma c'era un bel po' di animali, più di 100, e fortunatamente questa fattoria è stata chiusa, questo luogo degli orrori è stato chiuso. E gran parte degli animali sono stati dati a delle associazioni che fortunatamente li stanno cercando di recuperare dal punto di vista fisico, di rimetterli in sesto, tranne un cardellino che è stato proprio liberato, quindi questa è una notizia che ci piace dare, almeno lui è riuscito ad avere la libertà. Parliamo di un altro episodio che comunque è veramente preoccupante, fa molto riflettere quanto è accaduto ad Udine, dove un ex allevatore metteva in vendita dei gatti online facendoli passare per gatti di razza, quindi li ha venduti anche a cifre sui 400 euro, ma questi gatti, una volta che andavano ai nuovi proprietari, risultavano in pessimo stato di salute. Infatti erano stati maltrattati e tenuti in cattività, e fortunatamente si può dire l'intervento poi da parte di un'associazione li stanno mano a mano curando, li stanno rimettendo in sesto come gli altri animali di Pomigliano. Questa associazione Amici di Poldo li sta facendo riprendere. Continuiamo a parlare di orrori. In uno zoo tedesco, in seguito al Covid, spesso ne abbiamo parlato di come zoo e circhi si sono trovate in grande difficoltà economica e quindi di gestione degli animali presenti al loro interno. Ebbene, questo zoo ha pensato di risolvere la situazione uccidendo alcuni animali in modo che potessero servire da pasto per altri. E addirittura questa idea geniale non era nuovissima, perché a quanto pare anche uno zoo in Indonesia aveva avuto già questa idea, aveva portato avanti questa proposta. In modo particolare avevano deciso di uccidere in Indonesia specie come i cervi, che sono maggiormente numerosi, per poterli dare in pasto ad altri animali invece più rari. E torniamo invece, cambiamo un po', non parliamo di orrori, ma parliamo di una notizia abbastanza tra lo stravagante e il preoccupante, e parte da Elon Musk, l'eccentrico miliardario che noi tutti conosciamo, per altri progetti, ma un po' meno per questo progetto, che però lui ritiene il suo più innovativo e più, in qualche modo, più importante, perché più originale. Il nome è Neuralink. L'obiettivo di questo progetto sarebbe riuscire quindi a creare una collettività umana che sia interconnessa con tutte le intelligenze artificiali. Quindi questo consentirebbe a noi animali umani di avere diciamo le nostre funzioni cerebrali al top, al massimo, riuscire, grazie ad un piccolo impiantino nel nostro cervello, un microchip, un chip che verrebbe impiantato all'interno, questo per riuscire a connetterci a tutte le intelligenze artificiali che ci circondano e riuscire così ad implementare le nostre prestazioni. In realtà il progetto ha anche un aspetto che viene molto pompato dal team di Elon Musk, che è un obiettivo un po' più umanitario, perché grazie a questi impianti non avremo solo un miglioramento delle nostre performance, ma l'obiettivo sarebbe anche riuscire a riparare dei danni neurologici esistenti. Quindi molto banalmente, l'esempio più banale che mi viene da fare è per esempio riuscire a ridare le abilità di movimento a persone, per esempio, che non sono più in grado, non so, di camminare o muovere gli arti. In ogni caso, questo progetto è da tempo descritto nei suoi obiettivi importanti, gli investimenti sono molto grandi, per cui era molto attesa questa dimostrazione pratica ormai di qualche giorno fa, che era stata proposta e pubblicizzata come diretta web a cui poter partecipare. Quindi grande attesa per questa dimostrazione pratica, di cui non erano stati chiariti i termini, per cui qualcuno o qualcuna si aspettava anche che questo impianto, che in realtà è ancora piuttosto grande, perché è grande come una moneta, sarebbe stato fatto vedere su un essere umano. In realtà l'impianto cerebrale non è ancora stato provato sugli animali umani, ma ovviamente ovviamente, come spesso ci piace fare, è stato provato su animali non umani e in particolare sui maiali, su più maiali. Per cui in diretta web Elon Musk si è presentato con questa simpatica maialina al suo fianco, che ha anche un nome umano, per cui si chiama Gertrude, che ha questo impianto sul grugno. E lì Elon Musk ha mostrato come durante diverse attività della maialina, addirittura è andata sul tapirulan, ma ha fatto anche, svolto anche attività più semplici come annusare del cibo, ha mostrato quindi l'impianto come agiva di conseguenza e come era possibile visualizzarlo anche poi su uno schermo, visualizzarne i cambiamenti. Niente quindi di particolarmente innovativo e tecnologico, anche se vorrebbe essere la premessa, ed è stato ribadito anche in questa diretta web, di qualcosa di molto più tecnologico. Quello che ci viene da dire qui alla Mucchia Libera è che sicuramente questa è una scienza terribile, è una scienza terribile sicuramente nei confronti degli animali non umani, perché come sempre noi li utilizziamo come cavie da laboratorio, rendendo la loro vita dolorosissima e la loro morte spesso ancora di più. Ma quello che ci viene da dire è che è una scienza terribile anche nei confronti degli esseri umani, che è priva di qualsiasi elemento fondamentale di bioetica, di qualsiasi viola proprio i principi che dovrebbero essere alla base della bioetica, che sicuramente tutte queste possibilità tecnologiche che vanno in questa direzione vanno sempre nella direzione del sopruso e dello sfruttamento degli esseri animali, umani o non umani, che vengono considerati inferiori e più deboli. Quindi è proprio la scienza che non ci piace. Un'altra notizia molto particolare ci arriva dal Giappone, da Fukushima, il luogo dove l'11 marzo del 2011 c'è stato il terremoto, il conseguente tsunami, che hanno distrutto la centrale nucleare, provocando dei danni enormi e quindi anche l'esodo della popolazione del luogo fuori dalle zone più colpite da queste catastrofi. Naturali o meno naturali, come appunto la rottura di questa centrale nucleare. Nel corso degli anni, dal 2011 in poi, i territori che sono stati evacuati della zona di Fukushima sono stati ripopolati gradualmente da altri animali, ossia in prevalenza macachi, quindi scimmie, ma anche volpi, orsi e cinghiali, conigli e procioni. Questi animali hanno man mano popolato, ripopolato questa zona che comunque è radioattiva, quindi comunque hanno subito un danno. Dall'altro punto di vista hanno costruito una società in cui diciamo hanno abitato questo territorio anche dal loro punto di vista, quindi abitandolo e strutturandolo senza quello che accade in genere, cioè con l'urbanizzazione tutta contro gli animali, sul loro sfruttamento. Diciamo che in questi anni, nonostante abitassero un territorio fortemente radioattivo, hanno imposto anche delle proprie regole all'ambiente. Ora che è successo? Che gradualmente stanno tornando nelle zone evacuate gli umani e quindi si scontrano con questo fenomeno di animali non umani che hanno abitato dal loro punto di vista questo territorio, e quindi ci sono le prime difficoltà di convivenza, perché appunto gli umani sono abituati a governare i territori e non avere un rapporto sano e di solidarietà con le altre specie. Quindi abbiamo i primi umani che stanno cacciando le scimmie con fuochi d'artificio e altri strumenti per farle andare via, però ci sono anche le reazioni molto intelligenti da parte di questi altri animali, quindi comunque sono presenti ancora nel territorio in una situazione che la stampa mondiale sta paragonando al famoso film Il pianeta delle scimmie, dove appunto si parla di una società in cui le scimmie sono prevalenti rispetto agli umani nella gestione del territorio. E dopo aver rischiato un clamoroso spoiler sul film Il pianeta delle scimmie, per chiunque non l'abbia, anche se immagino saranno pochissime persone quelle che non l'hanno ancora visto, ma fortunatamente in ogni caso l'abbiamo scansato, dopo questo, appunto, questo falso spoiler, veniamo a parlare in realtà del mio argomento preferito, che sono gli orsi. I miei carissimi orsi, purtroppo ricordiamo la notizia tristissima della scorsa settimana in cui l'amato AM49 è stato nuovamente catturato e rinchiuso nel recinto del Casteller. In ogni caso, questa settimana un'altra notizia arriva riguardante gli orsi, perché un altro orso è stato trovato in Val d'Ossola. I militari della stazione dei carabinieri hanno rilevato la presenza di un orso che si trovava vicino a una carcassa di montone. Questa carcassa di montone in realtà era lì perché, non perché predata dall'orso, ma perché precedentemente era stata predata da un lupo, e su questa carcassa erano state poi ad arte posizionate delle fototrappole per appunto svolgere degli accertamenti rispetto alla fauna del luogo. E così in questa zona del Piemonte si è potuto avvistare di nuovo dalle immagini un animale che risulta appunto essere un esemplare di orso adulto, che si è appunto cibato dei resti di questa carcassa di montone, stazionando nella zona per circa un'ora. E da questa immagine non è stato possibile risalire almeno al sesso dell'animale, ma probabilmente si tratta dello stesso orso che era stato avvistato nella stessa zona circa a maggio, e in quel caso aveva distrutto 6 arnie. Si tratta forse di M29, che è un orso maschio di circa 7 anni, questo perché a maggio, nel cibarsi da queste arnie, aveva lasciato numerose impronte, dei piccoli ciuffi di pelo e qualche goccia di sangue, che avevano sicuramente confermato che si trattasse di un orso adulto, così come sembra essere dalle immagini che sono state catturate pochi giorni fa dalla fototrappola. Speriamo comunque che qualunque orso sia riesca a restare libero ancora per un bel po' o per sempre. E ancora restiamo sugli orsi, perché c'è un'altra notizia, questa volta felice, che ci arriva proprio in questi giorni. Il TAR di Trento ha finalmente accolto la richiesta di sospensiva dell'ordinanza di cattura dell'orsa GJ4, che era stata emessa dalla provincia di Trento, e ne abbiamo parlato già a questi microfoni, e lo rendono noto le associazioni animaliste che avevano presentato la richiesta al TAR e che ovviamente hanno accolto questo provvedimento come un provvedimento estremamente importante, l'hanno accolto con gioia e si sono dichiarati felici sia per l'orsa che per i suoi cuccioli, ma in generale per una piccola vittoria Nel percorso che va verso la tutela della biodiversità, del riuscire a dare voce anche a tantissimi cittadini e cittadine che comunque non amano tutti i provvedimenti che sono di ordinanze di cattura che sono prese nei confronti di questi orsi e queste orse, e che spesso chiedono a gran voce alle istituzioni di prendere delle decisioni che siano più ponderate. I've noticed you around. I find you very attractive. Una notizia flash dal Brasile, dove la zona del Pantanal nel... i primi mesi del 2020 sono più che raddoppiati questi incendi che hanno coinvolto i parchi nazionali del Mato Grosso, una zona umida e tropicale, e purtroppo uccelli e alligatori e giaguari sono colpiti da questi incendi. I've noticed you around. I find you very attractive. E passiamo a parlare di una notizia che è accaduta in mare, perché in Brasile è stato ritrovato purtroppo un pinguino morto e la sua morte è stata causata dall'ingestione di una mascherina N95, quindi una di quelle mascherine che siamo soliti portare per la prevenzione del Covid. Questa notizia è molto preoccupante e in effetti è stata accolta dalle associazioni ambientaliste come molto preoccupante, perché è il netto segnale di una nuova minaccia per la fauna marina, che quindi diventa sempre più vulnerabile a quelli che sono gli attacchi diretti e indiretti da parte dell'essere umano. Infatti i rifiuti della pandemia, ormai così sono chiamati, guanti, mascherine e tutti i dispositivi di protezione individuale che stiamo utilizzando per proteggersi dal virus, sono in crescente aumento e ormai sono una minaccia reale non solo per le acque del paese interessato, in questo caso alla morte del pinguino, cioè il Brasile, ma per l'ambiente di tutto il mondo. E secondo quanto riporta un articolo di questa settimana del Sole 24 Ore, nei mari ci sono già più mascherine che meduse. Ed è proprio stata proprio l'autopsia su questo animale morto, tra l'altro un pinguino di Magellano, un pinguino che a me piace in modo particolare. L'autopsia, dicevo, ha confermato che la morte è stata dovuta proprio all'ingestione di questa mascherina, che è quelle classiche, prima ho detto le mascherine chirurgiche, ma in realtà sono quelle che sono usate negli ospedali per proteggersi dalle N95, che sono usate negli ospedali per proteggersi dalle infezioni, ed è stata trovata praticamente intatta all'interno dello stomaco del pinguino, ne aveva ricoperto tutto lo stomaco e quindi ne aveva causato la morte. Speriamo che gli esseri umani sappiano iniziare a gestire anche queste dimensioni di pandemia, sicuramente di paura, di necessità di utilizzare di dispositivi di protezione per proteggersi dal virus, ma in modo più ecologico e consapevole. Passiamo adesso ad una piccola pausa musicale con un nuovo brano. Mirror, mirror on the wall, tell me mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make believe, people say I sit and try, but when it comes to being daylight, it's just me, myself and I. It's just me, myself and I. It's just me, myself and I. Just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Himself, not what you read or write. Right is wrong when hype is getting on. from me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Glory, glory, hallelujah. Glory for plug one and two. But that glory's been denied by cassettes and cookie eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states, black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Torniamo in onda, siamo arrivati alla nostra rubrica letture e visioni antispeciste. Questa sera parliamo di un testo che si chiama Smontare la gabbia, anticapitalismo e movimento di liberazione animale, a cura di Niccolò Bertuzzi e Marco Reggio per la casa editrice Mimesis Eterotopie, la collana. Questo testo è molto importante per quanto riguarda il movimento antispecista in Italia, in questo paese, perché fa un po' il punto della situazione, di come si è evoluto, di come si sta muovendo in questi ultimi anni l'animalismo, la liberazione animale e il rapporto che intercorre tra l'anticapitalismo e l'antispecismo. È un tema molto, molto ampio, insomma, ci sono vari interventi nel testo, appunto, di autori vari. E, si tratta di fare anche una verifica di quanto è successo negli ultimi anni attraverso le lotte, attraverso i vari movimenti che si sono incrociati, intersecati tra loro e quale può essere, appunto, una prospettiva per il futuro di questi movimenti. Smontare la gabbia, dice il titolo, perché si spiega in maniera con questa immagine molto pertinente, secondo me. Smontare la gabbia significa non volerla solo allargare come diceva e come praticava quella parte di primo animalismo welfarista e tutt'oggi, insomma, propone semplicemente di allargare le gabbie piuttosto che smontarle o anche solamente svuotarle, come può proporre invece un animalismo radicale. Smontare la gabbia significa arrivare alla radice, al cuore di quello che è lo sfruttamento animale legato anche alla società capitalistica. Gli argomenti di cui gli interventi del testo sono vari e ne accennavo, appunto, quelli che sono le sfide e i limiti del veganismo, come si è evoluto il veganismo soprattutto nel nostro paese, tra inserimento nel mercato e quindi ascesa nel mainstream del movimento vegano e quella che rimane anche un'inclusione, però anche con la vegefobia e con tutta l'avversità che c'è in fondo verso il veganismo, anche quando esso trova una sua collocazione, una nicchia di mercato. Quindi questo è il primo ragionamento che si fa come intervento nel libro. Poi si prosegue parlando di quello che è l'attivismo online, quelle che sono le basi e anche un po' quello che è il futuro dell'attivismo online, perché a volte spesso è capitato negli ultimi tempi che questo attivismo è diventato molto esclusivo, per cui sì, anche e soprattutto le associazioni animaliste stanno puntando una strategia esclusivamente virtuale che sta facendo perdere anche un po' la partecipazione a quelle che sono le lotte, quelle che possono essere anche dei semplici banchetti di controinformazione. Quindi viene fatta anche una tabella in cui si nota dove c'è una crescita esponenziale della presenza online sui social network di queste associazioni a fronte di una riduzione di quelli che sono gli strumenti che sono quelli classici di attivismo, che però ti consentono anche di avere un rapporto dal vivo, di persona con la gente, e quindi anche magari di avere una marcia in più nel parlare di questi temi della liberazione animale. Altro tema molto d'attualità è quello del rapporto tra le destre e l'antispecismo, le destre e l'animalismo, che purtroppo ci sono stati negli ultimi anni e c'è tuttora la presenza di elementi fascisti, nazisti e di destra nel movimento animalista, si infiltrano e portano avanti le loro battaglie con le sigle sempre più nuove, che però purtroppo richiamano a questo incontro che è da evitare tra l'animalismo e la destra. Altro argomento invece riguarda il fatto dal collettivo Bioviolenza, ci parla di quello che cos'è la carne felice, quindi degli allevamenti non intensivi, che però sono sempre allevamenti e quindi c'è sempre lo sfruttamento animale. Intervento molto interessante è quello che riguarda gli animali ribelli, fatto dal collettivo di resistenza animale, di cui noi spesso parliamo nella nostra trasmissione, citando il loro intervento in rete di comunicazione su quella che è la resistenza animale. C'è un intervento poi di Feminosca sull'intersezionalità e le alleanze tra i vari movimenti, tra quello antispecista e quello femminista in particolare. Intervento di Davide Maiocchi sui cani liberi e randaggi, molto bello, da leggere, così come quello di Agripunk sui rifugi, che sono quella che è un po' la politica che si porta avanti nei rifugi sociali rispetto ai rifugi classici che ci sono sempre in Italia e in altre parti del mondo. Poi c'è un intervento sul rapporto specifico tra anticapitalismo e il movimento di liberazione animale, e infine c'è la postfazione di Massimo Filippi, che ripercorre un po' tutte queste tematiche di cui ho accennato adesso come un po' come titoli e come semplice riferimento, però è un testo da approfondire perché è un testo politicamente molto significativo, perché ha più voci e quindi coinvolge vari attivisti e varie attiviste che portano avanti la cultura, la lotta e l'impegno antispecista nel nostro paese, di cui spesso poi nella nostra trasmissione abbiamo modo di citare per il loro intervento sociale e per quella che è la loro controinformazione e la cultura antispecista. Detto questo, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione per questa settimana. Io voglio ricordare semplicemente il canale Telegram, su cui poi di volta in volta mettiamo il podcast della trasmissione. Per vari interventi che volete mandarci c'è sempre la mail a disposizione, il cui indirizzo è lamuccalibera@autoproduzioni.net. Noi ci ritroviamo lunedì prossimo alle 19, in replica sempre martedì alle ore 11. Un saluto finale, un abbraccio a tutte e a tutti, alla prossima settimana. Ciao. My Lucifer is lonely, standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them.